Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Dallo studio dell'emittente radiofonica Rock FM. Trasmettiamo Eclettica! Cari ragazzi, buon pomeriggio. Il programma Eclettica. Rubrica dedicata ai problemi tecnici dell'agricoltura. Di e con Giulio Caperdoni. Inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Da parte mia, a tutti voi, l'augurio di una buona visione. Signore e signori, buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buonasera. Buon pomeriggio. Buonasera. Sera. Sera. Sera. Tra qualche istante vi trasmetteremo a colori. Eclettica! Eclettica! Eclettica! Andrà in onda tra qualche istante. Eclettica! Signore e signori, vi auguriamo buonanotte. Buonanotte. Buonanotte. Ma quanto è lunga questa settimana? Mi ero abituato bene. Due eclettiche alla settimana e tutto fatto. Invece sono già al quarto giorno. Eclettica ha ripreso il suo passo tradizionale, quello che ci porta dal lunedì al venerdì, tutte le sere, alle 19. E poi si va avanti fino alle 20. Giulio Caperdoni in vostra compagnia, a seguire Edo e a precedere Marco Garavelli. Giulio Caperdoni che risponde all'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com. Utilizzatelo per scrivermi direttamente e anche per iscrivervi alla lista nera. Una suora avanzò rapida, frusciando lungo la corsia. Si fermò ai piedi del letto di ferro. «Tra 5 minuti ripasso col campanello», disse. «L'ora di visita è finita». Era alta, con un volto largo e bianchissimo, come di gesso, gonfio dietro gli occhiali non cerchiati. Schiuse un sorriso sui denti perfetti. «Sgridatelo», aggiunse indicando Matteo a letto. «È un ribelle, sapete? Ditegli di stare buono. Lei la moglie? Beh, ieri sera voleva mangiare la peperonata, pensi? Lo faccia star bravo». «Suora», brontolò Matteo, «mi lasci perdere. L'avete data la peperonata a quello laggiù, con tutti i suoi 42 di febbre? E allora mi lasci perdere, è meglio». Questo era l'incipit di Una nuvola d'ira, di Giovanni Arpino. brush me against the wall with your robotic hair. I will grow feet and limbs and tall and be human. Get away! Watch it, Biff. Barney! I didn't mean to scare you. I didn't recognize you in those clothes. What the hell are you doing? Just putting on the second coat now. You going cowboy, huh? That's how it starts. We'll go back to your house. We check the charts. Start to figure it out. And if it's crowded, all the better. Because you know we're gonna be a plate. But if you're worried about the weather, then you pick the wrong place to stay. And so it starts. He switches the engine on. We set controls for the heart of the sun. One of the ways that we show our age. And if the sun comes up. If the sun comes up, then it's still the one that's staggered home. So here we go. Into the night. And if I made a fool, if I made a fool, if I made a fool on the road, there's always this. And if I'm zoned into submission, io riesco a avere il polso della situazione, di quali siano i brani che più preferite voi che ascoltate Eclettica, soprattutto grazie ai messaggi che mandate a Giulio a radiorockfm.com. È vero, ogni tanto compaiono dei commenti anche sulla pagina di MySpace, ma è soprattutto nella casella di posta, nell'intimo della casella di posta che vi lasciate andare. Quindi so che Queen Walker con Baby Neon, il brano che ha aperto la trasmissione di quest'oggi, è una delle preferite di questo periodo. Se ci fosse una classifica di Eclettica, Queen Walker sarebbe sicuramente ai primissimi posti in questo periodo dell'anno. Poi ci siamo ascoltati The Main Drag a rifare All My Friends degli LCD Sound System, una cover di un brano recentissimo, come sono tutte cover di brani recentissimi quelle della compilation da cui questo brano era stato estratto. Ve ne ho parlato la settimana scorsa, quindi non mi dilungo. E a proposito di cover, ecco una cover che arriva dal Surrey, Inghilterra. Lei si chiama Lauryn Doss, però si presenta con uno pseudonimo, Mechanical Bride, e vediamo un po' se riuscite a riconoscere qual è il brano. You have my heart, we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you'll still be my star. Baby, 'cause in the dark you can't see fancy cars, and that's when you need me there. Together we'll always share. It goes when the sun shines, we shine together. Stand under my umbrella. You can stand. these fancy things will never come in between your pride and my entity. If for infinity, when the war has took its part, when the war has dealt its cards, if the head is hard, together we'll mend your heart. Because when the sun shines, we shine together. Know that I'll be here forever. Said I'll always be your friend, and you know that I'll stick it out till the end. Now it's raining more than ever. Know that we'll still have each other. Come and stand under my umbrella. You can stand under my. Sapevo di sognare. La salita era ripida, il sentiero, appena tracciato tra le erbe, andava su con brusche curve, ogni tanto rabbuiandosi tra le acacie che si sporgevano a grappoli, a ombrello. Tutto pareva felice intorno, in un ordine e silenzio assoluti. Sul sentiero, isolate o a mucchi, secche, nel fango, erano le forme biforcute e larghe dei buoi e altre, appena accennate, minuscole, forse di cani, di volpi. E ogni tanto, tra i fili d'erba asciutta, apparivano i coni leggeri, granulosi, dei formicai. La luce era ancora alta, morbida, come il pelo di un coniglio, ben tesa nella sua celeste uniformità di dopo il tramonto. Questo era l'incipit dell'Ombra delle colline, di Giovanni Arpino. We'll be right back.